Ho voglia di gridare, ho voglia di cantare. Piangere, ridere, correre, correre, correre a te. Sono impazzito, improvvisamente, milioni di scintille si sono scatenate dentro di me. Sì, mi ha detto sì, la bimba mia, quel breve sì ha scatenato la mia follia. Nel mio cervello c'è un mulinello multicolore di famiglie, coralli e scintille a mille. Mi sento un fuoco che vuole esplodere nel cielo. Sono impazzito, improvvisamente, pulviscoli di stelle si sono precipitati dentro di me. Sì, sì, sì, mi ha detto sì. Mi ha detto sì, sì. Sono impazzito.